coordinatore, presidente della scuola. No, direi che mi sentite oppure. Buonasera a tutti, sono molto contenta di essere invitata in un ambiente, in un contesto completamente diverso da quello che frequento, che è quello dei giovani studenti del terzo anno, perché diritto civile, che è quella materia che insegna giurisprudenza, è prevista al terzo anno di giurisprudenza, quindi i miei interlocutori generalmente si avvicinano fino ai 22-23 anni. Beh, noi li abbiamo superati, ma no, è un'esperienza che ha l'argomento di cui tratteremo, questo degli stranieri, è oggetto di tanti studi, è vero, ma in particolare di una monografia che io faccio adottare perché ritengo che sia un tema, quello della cittadinanza, dell'immigrazione, importantissimo, quindi fa parte del mio programma anche del corso, devo dire che non di altri, ma del mio sì, e quindi lo conservo perché, volendo sempre cambiare, gli studenti dicono che quella parte è quella che gli interessa di più, quindi non lo cambio mai perché mi chiedono sempre, che insomma mi dicono che sono state utili le lezioni che abbiamo fatto, che c'entra, uno potrebbe pensare, il diritto civile con la situazione degli stranieri. Ha un collegamento stretto perché il diritto civile si occupa anche dei soggetti di diritto, delle persone fisiche, no? Tutto il problema del diritto di famiglia, che è una parte del diritto civile, quindi è un argomento che può far parte di un programma, di un corso di diritto civile o privato, quindi per questo l'ho seguito e lo continuo a seguire. Ma sono contenta perché invece oggi ho interlocutori maturi in grado di comprendere al di là delle norme che adesso vi spiegherò, anche le problematiche, perché secondo me occorre anche una certa maturità nella ponderazione degli interessi in conflitto, perché qui si parla soprattutto di interessi in conflitto, di tematiche che provocano conflitti. Ma allora vi devo fare una premessa così metodologica. Qui intanto vorrei stare al tema che è i diritti civili degli immigrati. Però già parlando con il dottor Ruzzi mi diceva, ma anche lo ius soli forse mi interessa, perché proprio l'acquisto della cittadinanza è un altro tema, cioè sono due temi completamente diversi, i diritti civili degli immigrati e l'acquisto della cittadinanza. Però se vi interessa, siccome le due cose poi sono diverse, completamente diverse, ma contigue, nel senso che l'immigrato può diventare cittadino, rebus sic stantibus, già adesso, forse se volete sapere, magari mi fate delle domande. Io quindi vorrei prima di tutto fare una specie di insieme, possiamo interrompere anche direttamente perché devo fare una lezione cartografica, ricostruire un po' il lessico di questa materia, perché si sente nell'uso non giuridico parlare di situazioni che non sono qualificate correttamente, quindi si sentono errori nella determinazione, nella descrizione delle categorie dei soggetti. Quindi prima dobbiamo intenderci, no? Con una convenzione fra di noi su cosa intende la normativa, perché io devo parlare del diritto degli immigrati per certe categorie di soggetti. Dopo chiarite le varie categorie di soggetti possiamo ricostruire la disciplina che li riguarda, ma se non ci intendiamo, ecco, per esempio proprio ieri in un'intervista televisiva sentivo dire, ah, ma se non diamo la cittadinanza a questi soggetti stranieri diventano tutti apolidi. Ecco, io già là è come se uno facesse un graffio sulla lavagna, perché lo straniero è una cosa, l'apolide è un'altra, quindi bisogna dare ad ogni categoria di soggetto la sua qualificazione, perché altrimenti non si capisce qual è la legge applicabile. Il giurista serve anche a questo, no? A fare della realtà, la realtà degli stranieri, quella è la realtà, una trattazione giuridica che a quella realtà dà una qualificazione, no? Per poter poi attribuire le norme, per costruire gli istituti. Ecco, quindi dobbiamo intenderci. E vi faccio una piccola storia su questo punto. La possibilità di classificare gli stranieri, chiamati nel titolo, io ho sempre il terrore che mi porto dalla scuola di uscire fuori tema. Qui è i diritti civili degli immigrati, possiamo dire come sinonimo, no? Se ci intendiamo come sinonimo anche straniero, pur non essendo proprio esattamente, noi giuristi siamo pedanti, esattamente un sinonimo, perché immigrato significa che è uno straniero che entra in Italia, straniero può essere uno straniero che si trova nel suo paese di origine e ha contatti commerciali per esempio con l'Italia, quello non è un immigrato, quindi già non ci limitiamo a parlare degli stranieri che sono interessati alla presenza nel nostro territorio, quindi non solo degli stranieri, però spesso si dice indifferentemente diritti civili dello straniero, diritti civili dell'immigrato. Invece già qui bisogna distinguere, quindi io voglio rimanere nel tema e ci occupiamo di stranieri che entrano in contatto col territorio italiano, che sono una particolare sottospecie della grande categoria dello straniero che va trattata con una certa cautela. Come si pone l'ordinamento italiano di fronte agli stranieri? Devo fare una piccola storia delle norme importante. Il codice civile è dell'italiano, è del 1942, ci sono delle date importanti, no? Che è ancora vigente, naturalmente modificato, novellato, riformato, però del 42 ha una parte importante, rilevante, al di là dei rapporti tra soggetti privati, che è la cosiddetta parte delle preleggi, disposizioni preliminari al codice civile. Dentro quella parte c'è una norma ormai desueta, abbandonata, perché esiste anche non soltanto l'abrogazione delle norme formale, ma anche la desuetudine come contrario della consuetudine, che è una forma di implementazione delle regole. È una regola che non si applica più, ma era nel 1942, in un'Italia completamente diversa da quella attuale, una regola imperativa, cioè non si poteva derogare, quella della condizione di reciprocità. Da questo dobbiamo partire, perché il giurista parte da questo presupposto, che i diritti, secondo quella norma, si riconoscono a qualsiasi straniero. Poi vedremo la categoria che si può fare adesso degli stranieri, a qualsiasi straniero, la condizione, cioè dei diritti che si possono riconoscere, i diritti civili agli stranieri, soltanto a condizione che, ecco la condizione di reciprocità, negli stati di appartenenza di questi stranieri l'italiano possa godere degli stessi medesimi diritti. Questo è dal quadro, cioè, della reciprocità. Noi riconosciamo agli stranieri, noi italiani, ripeto, norma desueta, stiamo parlando di storia, non vorrei che poi confondo le idee, ma di storia di questa regolamentazione, si riconoscono i diritti civili, tutti i diritti che si possono riferire all'ambito civilistico agli stranieri a condizione di reciprocità, ed era una norma abbastanza consueta anche in altri ordinamenti, cioè se noi italiani andiamo nello Stato di questo straniero che chiede il diritto in Italia, l'esercizio del diritto in Italia, dobbiamo essere avere lo stesso trattamento, quindi c'era una verifica di reciprocità per ogni diritto fatto valere in giudizio. Ovviamente quando è che viene in evidenza la necessità del diritto? Quando si controverte sull'attribuzione di questo diritto, quindi il giudice eventualmente, no, adito dallo straniero o per avventura interessato a questo problema, doveva accertare per riconoscere questa condizione. Questo è il quadro. Che cosa succede? Un evento rivoluzionario, entra in vigore la Costituzione italiana del 1948, che si occupa di questo tema dello straniero, torna sul tema dello straniero con una norma precisa, dice che la condizione giuridica dello straniero è regolata con riferimento anche alle norme internazionali, quindi apre la prospettiva anche alla normativa di fonte sovranazionale, parificandola. Quando la Costituzione si riferisce alle norme sovranazionali, adesso non voglio fare un discorso costituzionale, ma comunque le ingloba e le rende pari a se stessa, quindi queste norme sovranazionali che si occupano dello straniero devono essere applicate, hanno questa fonte nel rango della gerarchia delle fonti, ma fonte costituzionale nel 48 già, quindi la condizione giuridica dello straniero non è più soltanto decisa dall'Italia, ma l'Italia deve prendere atto anche di quanto è stabilito dalle fonti sovranazionali, e si pensa soprattutto alle dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo, ai trattati sovranazionali, alle carte dei diritti, per esempio quella europea, la nuova Costituzione europea, successivamente questa clausola generale della Costituzione si è riempita di significato. Quindi la normativa italiana non corre da sola, non si evolve da sola sugli stranieri, ma deve tener conto dei trattati internazionali. Come deve tener conto? Attenzione, come se fossero norme costituzionali, ed anche le norme costituzionali a loro volta si applicano agli stranieri, no? Quindi si può verificare attraverso quello strumento che tutti voi conoscete, il giudizio della Corte Costituzionale, si può verificare la congruità delle norme eventualmente emanate rispetto ai principi costituzionali, che sono importanti, rispetto ai principi delle norme sovranazionali. Quindi già piano piano vedete che col rango costituzionale, con i principi fondamentali, negli interpreti ha perso importanza quel riferimento alla necessità della verifica della reciprocità per certi diritti di rango costituzionale che invece prima era necessario. Con la Costituzione tutti gli interpreti sono d'accordo nel dire c'è un nucleo di diritti dell'uomo che non guarda alla nazionalità, si applica a tutti. Questo nucleo va individuato e lo possiamo individuare anche aprendo la Costituzione, poi vi spiego qual è l'opinione degli interpreti, ma voglio arrivare piano piano all'evoluzione normativa. Dopo la Costituzione c'è stato un periodo che del 48, quindi di tanto tempo fa, c'è stato un periodo di totale disinteresse del legislatore rispetto allo straniero che entra in contatto col territorio italiano, non lo straniero che si trova a casa sua, ma che entra in contatto col territorio italiano. La prima necessità di regolamentazione della condizione giuridica dello straniero immigrato, cominciamo a fare un cerchio dentro la categoria straniera più stretto, immigrato, e si è emersa con il problema dell'immigrazione dei lavoratori subordinati in Italia. Posto che l'Italia è stato un paese di emigrazione, eccolo ius sanguinis, che poi vi spiegherò se avremo il tempo, la radice di questo passaggio della cittadinanza per via familiare, no, perché eravamo, me lo ricordo anch'io che sono nata nel 57, mi ricordo l'emigrazione, sono nata in Abruzzo, come sentirete anche dal mio accento. Io sono nata in una terra di emigrazione, quindi la mia infanzia fino ai 15-20 anni cioè, è contraddistinta da ricordi di emigranti in Svizzera, in Germania, in Canada, addirittura tante mie compagne di scuola, elementari se ne andavano, quindi era un paese che non si poneva il problema della immigrazione del lavoratore, no? Lavoratore emigrato, non immigrato. Cambia pian piano il panorama sociale e si pone il problema dell'immigrazione di chi? Di lavoratori subordinati, anche in Italia. Questo adesso lo datiamo più o meno alla fine del secolo precedente, ma non manca però una regolamentazione che tenga conto di questa condizione particolare. L'Europa però è già attenta, sapete che la Comunità Economica Europea del 1900, il trattato del 57, quindi dopo, negli anni 60, già si comincia a livello europeo, per esempio in Germania, a porsi il problema di come regolamentare i flussi migratori, non in Italia, ma nei paesi di destinazione, Germania, Svizzera, si pone già questo problema che noi abbiamo adesso, si pone già allora. E cosa si sviluppò allora nella Comunità Economica Europea, che adesso chiamiamo Unione Europea, già si sviluppò questa esigenza di assicurare l'integrazione del lavoratore subordinato, che io ricordo, avendo studiato post laurea in Germania, era il famoso Gastarbeiter, cioè il lavoratore, la grande categoria del Gastarbeiter, il lavoratore che turco prevalentemente, che vive in Germania, che fa l'incidente stradale, che investe un tedesco, tutti i problemi che si ponevano nelle aule universitarie, cosa fare, come chiamarlo responsabile e così via. In Germania negli anni 80 il problema era già risolto, infatti se vedete la gestione dell'immigrazione in questi paesi è molto diversa da quella italiana, perché è più antica. Io ricordo, rimasi impressionata da sapere che Berlino è la più grande città turca del mondo, non sapevo mai che fosse così, invece era, non credo che sia cambiato, la più grande città turca nel mondo, cioè più della Turchia, Berlino, allora, negli anni 80, quindi era tutta un'altra realtà. L'Italia piano piano vede arrivare dai paesi che noi conosciamo questi lavoratori subordinati e si, appunto, ripeto, si comincia a ventilare già in Europa, ma arriva anche in Italia, questa esigenza di integrare il lavoratore subordinato, di avvicinarlo alla realtà del paese in cui lavora. Qual è la prima, dopo la Costituzione, il primo riferimento normativo che noi abbiamo? È la famosissima legislazione Martelli. Claudio Martelli, quando fu quante cose ha fatto Claudio Martelli in quel periodo, come oltre che chiamare Falcone, fece anche un'importante legislazione sul diritto al ricongiungimento dei lavoratori subordinati. Questo è il primo diritto, la prima figura di diritto dell'immigrato, il diritto al ricongiungimento familiare, che era strettamente legato, mentre adesso è un diritto generale riconosciuto al lavoratore subordinato, è un diritto a ricongiungersi con la sua famiglia, e l'Europa lo vedeva come un diritto funzionale all'integrazione, lo vediamo anche noi, no? È evidente, potendosi ricongiungere con il nucleo familiare più stretto, si favoriva l'integrazione del lavoratore subordinato. Parliamo però di un soggetto con regolare contratto di lavoro subordinato, quindi già qui si insinua la necessità di distinguere tra immigrati regolari e immigrati non regolari, perché la legislazione Martelli, la legge Martelli si riferiva evidentemente ai regolari, ai lavoratori subordinati con un contratto di lavoro regolare, no? Che avevano, a cui è stato in quella negli anni 80, la prima Repubblica ancora, riconosciuto il diritto di ricongiungersi con i propri familiari, cioè chi, la moglie, i genitori eventualmente, i figli, la famiglia nucleare, no? Beh, dopodiché altro periodo di vuoto, con però una realtà di flussi che cresce anni 90 fino ad arrivare ai giorni nostri. Si è sentita l'esigenza, ed è stato fatto questo, di fare un testo generale che non tenesse conto della natura di lavoratore del soggetto immigrato, no? Ma che guardasse in generale la condizione giuridica dello straniero immigrato, comunque il contatto. E questa è la pietra miliare, è il testo unico del 1998. Adesso ve lo dico. Il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, proprio sulla condizione dello straniero. Il testo unico numero, famosissimo, lo conoscerete, numero 286 del 1998. Da lì non ci sia, allora ci sono stati tanti aggiornamenti, però il testo unico 286 del 98 è la base di regolamentazione delle questioni che riguardano anche i diritti degli immigrati, non solo, ma anche riguardo alla regolamentazione dei flussi migratori, eccetera, eccetera, ma anche. Qual è la legge che entra dentro il testo unico? Perché il testo unico è una unione di varie leggi, ma c'è una legge principale che entra, diventa testo unico, perché la volontà era quella di fare una regolamentazione generale, è la famosa Turco-Napolitano. Poi le persone hanno anche, no, i nomi dei relatori, come ho detto, Martelli, si pensa al Partito Socialista Italiano di prima Repubblica, come dico Turco-Napolitano, potete capire qual è l'orientamento, era quel governo in cui la Turco, penso fosse ministro degli esteri, no, del Napolitano era degli esteri, Napolitano. E no, la Turco era dell'interno. Politiche sociali interne napoletane. Allora, la famosissima, ricordo, la legge turco-napolitana, che è questa la base, proprio la base. Stiamo parlando di Libia Turco. No? Sì, sì. E la base, ci tengo a dirvelo, perché poi a questa legge turco-napolitana, confluita nel testo unico di cui vi sto parlando del 1998, è succeduta cambiandosi governo, perché questi sono problemi politici affrontati con un taglio politico. Io vi parlo delle categorie giuridiche, ma ovvio che poi ognuno vi dà una impostazione diversa. È succeduta la famosa Bossi-Fini. Allora, la Bossi-Fini, che appunto è espressione di tutt'altro orientamento politico, Bossi era lì, non mi ricordo, ministro Fini era ministro probabilmente degli interni e Bossi degli esteri, insomma sono sempre interni e esteri, più o meno. Bossi del rapporto con il Parlamento. Allora, la Bossi Fini venne vista come una legge liberticida che cambiava questa. Invece vi dico che dal punto di vista della quello che noi dobbiamo vedere, cioè i diritti fondamentali, nulla è cambiato. Perché si guarda l'aggiornamento, quei diritti fondamentali, soprattutto la classificazione dei vari tipi di stranieri, è rimasta, gli articoli 1 e 2 di questo testo unico sono rimasti invariati. Certo, c'è stata una stretta sui flussi migratori, sul controllo, sulle espulsioni, ma che non riguarda quello che vi dico io, che è l'aspetto fisiologico, non patologico, dei diritti, no? È quello che vogliamo oggi insieme ricostruire. Faccio una parentesi, sono stata interpellata dalla stampa su questo da Avvenire, mi pare, inviata di Bologna, su che cosa avrei detto, e io ho detto parlo dei diritti civili, ah perché c'hanno i diritti gli stranieri? Domanda, ho detto sì, ce li hanno, adesso spiegheremo come, ma ce li hanno, anche se sembra di no. bisogna che sappiano proprio di averli, eh? Quindi bisogna creare una consapevolezza anche su questo punto, è per quello che si fanno poi le lezioni giuridiche. Ecco, allora la Bossi-Fini interviene sulla parte amministrativa, penalistica, sanzionatoria di questo testo unico, ma non cambia, questo va detto, non cambia gli articoli 1 e 2 che sono quelli nei quali mi muovo io oggi per fare un piccolo quadretto giuridico di questo tema e per capire anche perché tante volte bisogna nell'usare i termini essere precisi, no? Bene, cosa stabilisce questa normativa? Cioè tutta una parte che ripeto riguarda le politiche migratorie che non voglio adesso richiamare, naturalmente è stato oggetto di interventi di adeguamento, però rimane la base per noi che dobbiamo studiare i diritti degli stranieri. Allora intanto fa una specie di classificazione degli stranieri, no? Con l'articolo 1, ambito di applicazione di questo testo unico numero 286 del 98, si dice: il presente testo unico, in attuazione di quel famoso articolo 10 della Costituzione di cui parlavo, che nello stabilire che lo straniero viene considerato dall'ordinamento italiano rinvia anche ai trattati internazionali, quindi in applicazione dell'articolo 10 della Costituzione, si applica ai cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. Quindi fa una prima definizione, chi sono gli stranieri? Una prima definizione importante perché è cogente, cioè le norme si applicano a queste due categorie. Sono gli stranieri extracomunitari e gli apolidi. Quindi abbiamo già la possibilità di cominciare questa classificazione. Allora, straniero non è il cittadino comunitario, no? Quindi abbiamo eliminato dalla categoria del cittadino dello straniero e anche dell'eventuale immigrato, perché ci può essere anche una circolazione di lavoro all'interno dell'Europa, i cittadini comunitari. Sapete tutti che noi siamo, oltre che cittadini italiani, anche cittadini dell'Unione Europea, c'è una norma espressa che lo prevede, siamo tutti cittadini comunitari e in quanto tali non siamo stranieri nei paesi dell'Unione Europea, quindi non sono quelli gli stranieri, via. Questa categoria, i cittadini comunitari godono evidentemente della stessa condizione giuridica degli italiani, questo mi sembra. Anche se sapete che l'Europa si è allargata, ci sono paesi che erano originariamente paesi di immigrazione, anche quelli, l'Italia dell'Europa dell'Est, però questi sono considerati cittadini al pari dei cittadini italiani. Sono cadute le frontiere, poi c'è stato il trattato di Schengen che ha previsto la libertà di circolazione delle persone, quindi non sono stranieri. Allora, chi sono questi stranieri di cui ci occupiamo e di cui si occupa il testo unico? Vedete, dice quelli che non appartengono alla Unione Europea e gli apolidi, cioè chi sono gli apolidi? Sono una categoria a parte, coloro che non hanno mai avuto alcuna cittadinanza o che le hanno perdute, non hanno cittadinanza, non sono gli stranieri immigrati di cui non si riconosce l'origine perché mancano i registri, no? Come spesso accade, di identificazione. Quelli però una cittadinanza devono averla, sì, magari sì. Ricostruisce per presunzioni, ma non sono apolidi, poi lo vedremo, vanno fuori, gli stranieri li dobbiamo riclassificare. Allora non sono i cittadini comunitari. Quali sono allora questi stranieri a cui si riferisce questo testo unico sulla condizione dello straniero? Gli extracomunitari. Ma lo straniero può essere di vario genere. Allora, può essere uno straniero, vi ho già detto, che non è presente nel territorio dello Stato, no? A questo straniero non si applica questa normativa, perché la normativa prevede che ci sia un ingresso nel territorio dello Stato. E quindi ancora, secondo i giuristi più classici, si deve verificare l'attribuzione dei diritti a quelli che stanno nei loro paesi di origine della condizione di reciprocità. Quella norma che è ancora vigente, se dovesse ancora tornare in discussione, riguarderebbe gli stranieri che stanno nei loro stati, per esempio nel diritto patrimoniale, della proprietà, delle successioni, ancora si va a guardare. Pensate, vi faccio un piccolo esempio, alla successione dei legittimati. Noi abbiamo la successione necessaria, i figli e il coniuge ereditano indipendentemente dal testamento. Negli Stati Uniti non c'è questa riserva per i legittimati. Se non facessimo, e si fa ancora, la verifica della reciprocità, ci sarebbe una gran confusione, perché l'italiano che poi diventa residente e sottoposto alle leggi americane potrebbe invertire, insomma, sono stati tutte le problematiche, ma insomma non deve comunque sottoporsi a questa verifica di reciprocità nel diritto patrimoniale, che a noi non interessa, ma è lo straniero che rimane nel suo stato. E il piccolo, la piccola fiammella che ancora vive della condizione di reciprocità nell'attribuire diritti patrimoniali agli stranieri degli stati. Poi ci sono gli stranieri che invece sono immigrati o vogliono essere immigrati. Qui c'è l'articolo 2, diritti e doveri dello straniero, di questo testo unico, che fa una distinzione molto importante, secondo me, per capire quali sono i diritti. Fra straniero comunque presente alla frontiera, e qui mi pare che siamo, no? Lo straniero comunque presente alla frontiera è una definizione che comprende anche lo straniero irregolare, no? Comunque presente alla frontiera, e secondo comma lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. Due, quindi, sottocategorie dello straniero, no? Extracomunitario. Qui piano piano ci siamo avvicinate. Lo straniero irregolare, lo straniero cioè lo straniero non regolarizzato, comunque presente alla frontiera, e lo straniero invece regolarmente soggiornante, cioè munito, forse voi questo lo sapete più di me, se operate nel sociale, di permesso di soggiorno, no? Allora, per quanto riguarda, voglio passare prima allo straniero regolare, che è quello che poi dà meno problemi, per quanto riguarda questa normativa e la sua novità rispetto alla legislazione, alla legge Martelli che l'ha preceduta nel 1983, qui c'è una particolare caratteristica del testo unico, che allo straniero regolare si attribuiscono tanti diritti, alcuni diritti poi menzionati esplicitamente, altri implicitamente, tanti diritti da parificarlo completamente al cittadino, lo straniero. Questo deve essere chiaro, che lo straniero lo dice chiaramente. Secondo comma dell'articolo 2, lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano. Allora, quando mi si dice, ma perché ce l'hai i diritti? Beh, se è regolare, li ha, come? È parificato al cittadino italiano, quindi la regolarizzazione ha un effetto di totale parificazione, salvo che convenzioni internazionali in vigore per l'Italia dispongano diversamente, ma non voglio andare nel dettaglio. Quindi il regolarmente soggiornante, per quanto lo è, per il tempo che lo è parificato al cittadino italiano, quindi non c'è bisogno che andiamo a avere tutti i diritti che hanno i cittadini. Scusi, compreso anche quello di voto? Allora, per quanto riguarda questo tema centrale, ma io non sono una politica, un po' la faccio la politica, e quindi non è che non me ne interesso, è il tema centrale, no? Pare che sia il retropensiero di chi vuole attribuire lo ius soli, no? Tutti ormai l'abbiamo capito, perché essendo poi il panorama, cioè essendo i discorsi abbastanza confusi e ambigui, pare che, no, evidentemente la risposta è no, perché se fosse sì non avremmo questo problema dello ius soli in mezzo a... è no alle elezioni politiche, perché parliamo di diritti civili, quindi io parlo, se lei mi chiede il voto, andiamo nel campo del diritto pubblico e non è la mia materia, però le dico che so, perché l'ho studiato, che invece il diritto di voto ce l'hanno, e questo l'avete visto nella città metropolitana, a livello delle amministrative, quando sono regolarmente cittadini regolari possono votare nelle elezioni amministrative, cioè locali, comunali, regionali, a livello di elezioni politiche, no, infatti questa è la tematica, però sono diritti non civili, io mi occupo dei diritti nei rapporti tra civili, non dei diritti, anche se è facile rispondere, non ce l'hanno, perché se ce l'avessero non ci sarebbe alcuna questione dell'attribuzione della cittadinanza, visto che è uguale la condizione dal punto di vista dei diritti civili. Bene, e allora questo articolo 2 dice che i diritti regolarmente soggiornati. Qual è la particolarità rispetto alla legge Martelli? Che il permesso di soggiorno e la condizione di regolarità non è più qui vincolata al lavoro subordinato. Questo è il passo avanti che ha fatto il testo unico. È diventato più generale, perché non presuppone per l'attribuzione dei diritti che il soggetto sia un lavoratore subordinato, come era nella legge Martelli, che diceva attribuiamo il ricongiungimento, il diritto al ricongiungimento, ma ai lavoratori subordinati. No, qui il testo unico estende a tutti coloro che sono regolarmente soggiornanti, quindi le cause del permesso, le giustificazioni del permesso sono le più varie, di famiglia, di studio, di lavoro, perché voi sapete anche che poi anche per quanto riguarda le professioni, tutta la questione del riconoscimento delle professioni fra uno stato e l'altro, insomma, è una materia complicata, ma lavoro, professione, lavoro, famiglia, studio, A tutti questi soggetti si riconoscono questi diritti civili che l'articolo 2 in generale riconosce allo straniero regolarmente soggiornante, quindi svincolato da quella condizione di lavoratore subordinato che era la ragione per cui si cercava l'integrazione. L'integrazione è un obiettivo che riguarda tutti, non soltanto quelli che sono lavoratori subordinati e quindi si presumevano in condizioni di disparità sociale e culturale con gli stati di appartenenza. Bene. Interessante però, allora su questo poi ci torniamo sui diritti civili e vediamo, ve lo anticipo, forse a voi interessa molto, che essere regolarmente soggiornanti significa poter fare il passo di diventare cittadini. Questo è il punto. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può diventare cittadino, quello non regolarmente soggiornante non lo potrà diventare mai, salvo che non ci siano delle condizioni particolari come quello della minore età, che è ben considerato al nostro ordinamento. Però, ecco, questa è una base, l'essere regolarmente soggiornati, che rende molto più agevole e non ha fatto peregrino l'acquisto della cittadinanza. Poi vi dico come, secondo quali tecniche. Quindi non è una condizione che non si tramuterà mai, anzi spesso se vuole, perché ci vuole anche il consenso del soggetto ad acquistare la cittadinanza italiana, può acquistarla. Si chiamano modi di acquisto non automatici, ma su richiesta dell'interessato della cittadinanza italiana. Ma torniamo ai nostri mirati. Il primo comma dice: lo straniero comunque presenta la frontiera. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare via? Lo dobbiamo... Non è completamente, l'ho detto anche quando mi hanno chiesto di che cosa avrei parlato, non è completamente sconosciuto, non è un fantasma che si aggira in Italia senza nessuna condizione giuridica, ce l'ha una sua condizione giuridica ristretta, un nucleo ristretto, ma ce l'ha. Infatti dice questo articolo, primo comma dell'articolo 2, allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato, quindi alla frontiera distingue pure, o nel territorio dello Stato, quindi se si è clandestinamente inserito nel territorio dello Stato, perché si presume che entrare è un momento, essere già nel territorio è un secondo momento, che si fa? Sono riconosciuti, ecco che io rispondo sì, anche agli stranieri immigrati non regolari ci sono riconosciuti dei diritti, i diritti fondamentali della persona umana. Certo, è una clausola generale, bisogna discutere su quali sono questi diritti fondamentali della persona umana, però attenzione, ci sono dei riferimenti normativi. Agli stranieri comunque presenti nella frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana, previsti dalle norme di diritto interno, e quali? Cioè, i diritti fondamentali sono previsti in primo luogo dalla Costituzione italiana, no? Anche se non escludo che si possa far emergere in via implicita oppure anche da altre leggi diverse diritti fondamentali. Comunque, quelli della Costituzione, andiamo per ordine, previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore, cioè per esempio la Convenzione sui diritti dell'uomo, quelli si applicano tutti. E sono tanti, sono più di quelli che la Costituzione attribuisce agli italiani, e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, addirittura dai principi, quindi non solo dalle regole, ma anche dai principi, no? Principio del rispetto alla persona umana, del divieto di tante altre principi che non sono necessariamente norme di legge, quindi gli si applicano questi diritti fondamentali, un nucleo di diritti fondamentali. Queste due norme hanno completamente, per queste due categorie di stranieri, tolto vigore a quella condizione di reciprocità. Vedete che gli si applicano senza verificare se noi, andando nel loro paese, ce li abbiamo o no questi diritti. Ecco che questa emersione di un nucleo di diritti fondamentali per gli stranieri, qualunque sia la loro condizione, e la qualificazione agli italiani per gli stranieri regolari, ha tolto importanza alla verifica della reciprocità. Tutto riconosciamo, no? Senza vedere se noi andando nei loro paesi siamo o meno, abbiamo o meno gli stessi diritti, perché c'è questo principio generale dei diritti fondamentali. Adesso non ve li elenco tutti, ma li sapete, per vedere la Costituzione c'è chi dice attenzione, ci sono delle norme della Costituzione, della prima parte della Costituzione, che si riferiscono ai cittadini, il cittadino, altre che dicono tutti o nessuno. Ecco, già nel 48 il Costituente si dice, quando diceva tutti o nessuno si riferiva a chiunque indipendentemente dalla cittadinanza. Se diceva cittadino, si riferiva alla libertà fondamentale cittadina. Adesso volendo le possiamo, ce l'ho sotto gli occhi, ci sono delle norme importanti, alcune si riferiscono a tutti i cittadini, per esempio articolo 3, la uguaglianza si riferisce ai cittadini, ma per esempio altre importanti norme si riferiscono a tutti o a nessuno, no? Se lo leggiamo, i diritti e doveri dei cittadini, lo vediamo. Per esempio la libertà di circolazione, di soggiorno a ogni cittadino, la libertà di riunione, di articolo 17, di cittadini hanno diritto di unirsi, i cittadini hanno diritto di associarsi, l'associazione. Ma l'articolo 19, questo è interessantissimo, dice tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, questo è importante, individuale o associata, di farne propaganda, di esercitarne in privato, in pubblico il culto, purché, attenzione, c'è sempre un limite, perché c'è sempre un limite ai diritti, se no non sarebbero diritti, ma sarebbero, come dire, arbitri, c'è sempre un limite ai diritti, c'è la categoria dell'abuso del diritto su quale tanti hanno scritto, purché non si tratti di diritti contrari al buon costume. Questo articolo 19, non a caso, dice tutti, quindi già al Costituente era chiaro che la libertà religiosa è una libertà che non si può sopprimere, reprimere, no? Quindi tutti, già bastava una lettura, non c'era bisogno che quello andasse a dire che i diritti fondamentali, l'articolo 2 del testo unico, i diritti fondamentali come la libertà religiosa fossero riconosciuti. Lo vediamo già nella Costituzione del 48, per esempio questa, no? Quindi da dove la deduciamo la libertà religiosa? Nei limiti del buon costume. Nei limiti del buon costume, adesso vi chiederò, perché mi sono occupata anche delle mutilazioni genitali, femminili, maschili, tutti questi problemi dell'integrità fisica, ci sono dei limiti, no? Che dettati dal diritto all'integrità fisica, per cui se i riti prevedono una diminuzione della integrità fisica sono contrari, anche alle norme imperative, non solo al buon costume. Però, insomma, ci sono già dei germi nella Costituzione di questi diritti fondamentali. I cittadini possono associarsi, tutti, vedete l'articolo 21, la famosissima libertà di manifestazione del pensiero, non dice i cittadini, costituente, dice tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione. Come lo interpreta questo alla luce poi del testo unico? Un giurista dicendo che a chiunque, regolare o non regolare, gli si deve attribuire la libertà di manifestazione del pensiero, a parte che glielo attribuisce anche la Carta dei diritti dell'uomo, ma anche la nostra Costituzione, no? Quindi si leggono le varie norme così. Nessuno può essere, articolo 22, nessuno, anche qui quando si dice nessuno non si riferisce soltanto ai cittadini, ma a chiunque, qualunque uomo, nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Un'altra importante tutela del singolo. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta, questo è il principio della tassazione, importantissimo, perché attenzione, poi vi dico, c'è il problema della fiscalità, dell'aspetto fiscale, perché il cittadino, lo straniero regolarmente soggiornante ha tutti i diritti, però ha anche i doveri del cittadino italiano. Attenzione, questo forse l'avete studiato, i cittadini non regolarmente soggiornanti hanno un nucleo di diritti, ma non hanno nessun obbligo fiscale, quindi non pagano le prestazioni che gli vengono erogate, in particolare la prestazione legata al diritto alla salute nel primo soccorso, oppure la scuola, la prestazione, poi vediamo quali sono i diritti fondamentali, dell'obbligo che non sono, no, a cui non corrisponde un contributo fiscale di questi soggetti, per dire. Comunque nessuno può essere privato, nessuna prestazione può essere imposta. Questo è molto importante, la libertà di agire, il diritto di agire in giudizio, articolo 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, tutti. Quindi dobbiamo seguire alla lettera questa norma, ed è vero, perché così fa, si può accedere alla giustizia per chiedere un risarcimento del danno, per chiedere una prestazione contrattuale e così via, indipendentemente dall'accertamento della regolarità davanti al giudice, se si fanno valere i propri diritti, no? Pensate al diritto alla retribuzione dello straniero non regolare, clandestino, che può difendere questa, oppure può denunciare la sua situazione, insomma i propri diritti, anche il clandestino li può far valere, perché questo diritto di agire in giudizio non è negato a nessuno per la tutela dei propri diritti, nei limiti naturalmente processuali. Queste sono le principali, poi ci sono rapporti diversi economici, ma vedete come già nella Costituzione si faceva una differenza, già possiamo enumerare, abbiamo enucleato dei diritti fondamentali di tutti, ai quali però non corrisponde, questo lo voglio dire, un dovere di contribuzione, no? Quindi sono libertà fondamentali, senza... Chi è che contribuisce? Contribuiamo noi cittadini e quelli regolari, che invece naturalmente sono regolari e quindi devono anche contribuire finanziariamente allo Stato, per una finalità di sostegno, sostentamento, di solidarietà, un principio di solidarietà che ci fa attribuire diritti che costano allo Stato anche chi non contribuisce in alcun modo alle finanze dello Stato. Quindi ritorniamo alle nostre classificazioni, queste sono le due del testo unico, no? Presenti e non presenti, e poi ci sono altre figure che sono distinte da queste, quella dell'apolide e quella del rifugiato. E attenzione, non possiamo fare di tutte queste categorie un'unica categoria. L'immigrato, pensiamo, adesso abbiamo questo titolo, i diritti civili degli immigrati, è quello che appunto si trova nello Stato italiano con un permesso di soggiorno, ma poi ci sono anche altre categorie di stranieri, torniamo a quella nozione di straniero, allora ci mettiamo dentro l'immigrato, abbiamo messo lo straniero che non è immigrato, lo straniero immigrato, regolare o non regolare, ci mettiamo dentro anche l'apolide, che è considerato dal testo unico perché si applica anche all'apolide, cioè colui che non ha mai avuto una cittadinanza, si chiama apolidia originaria, o che l'ha perduta, apolidia successiva, sopravvenuta. Esistono casi di apolidia sopravvenuta. Il più forse noto nella cronaca è quello dei cittadini cubani. A Cuba, se si andava fuori da Cuba, c'è una ragione storica, politica chiara, per un certo periodo di tempo, oltre i 9 mesi, si perdeva la cittadinanza cubana, quindi si doveva rifare la domanda per ottenere la cittadinanza, cioè sono casi di perdita sopravvenuta perché lo stato di provenienza mette dei paletti, no? Non ci si poteva allontanare più, poi si è accorciato, però comunque l'allontanarsi dal paese, da Cuba, per più di un certo periodo di tempo determina la perdita della cittadinanza. Per esempio in quel caso il soggetto non ha nessuna cittadinanza, è un apolide, lo può perdere successivamente, oppure fin dall'origine non si sa a quale nazione appartenga. Questa è un'altra categoria. Terza, ultima categoria è i rifugiati. Voi sapete che i rifugiati godono di tutt'altra disciplina, hanno un'altra disciplina che non sta nel testo unico, anche se il testo unico ogni tanto ci si riferisce, li accenna, perché il rifugiato ha come base di partenza una situazione di difficoltà, no? Di pericolo per la vita, data dalle condizioni in cui dello Stato in cui si trova, per cui è messo in pericolo la sua vita, la sua persona, i suoi beni, e quindi si rifugia nel nostro Stato. Ci tengo a dire che queste qualificazioni dei soggetti che vengono in Italia non sono qualificazioni che si attaccano come una medaglia e dici io sono un rifugiato, sono un apolide, io sono uno straniero. Devono essere accertate. L'apolide non è apolide perché non ha la cittadinanza, è apolide perché viene dichiarato apolide da un procedimento o amministrativo o giurisdizionale. Si fa una domanda di riconoscimento dello stato di apolidia e si ottiene questo riconoscimento. A che cosa conduce questo riconoscimento? All'equiparazione allo straniero regolare. Quindi anche l'apolide gode di tutti i diritti del cittadino italiano, ma solo se questa condizione di apolidia viene accertata, non è che lui si autodefinisce apolide e dice vabbè io sono apolide, non ho cittadinanza. No, ci vuole un procedimento davanti, quello dell'apolidia davanti al giudice, è un procedimento giurisdizionale, perché il diritto ad essere dichiarata apolide, questa è una cosa tecnica, non mi voglio annoiare, è un diritto soggettivo, quindi dei diritti soggettivi è competente il giudice, no? Mentre per esempio ci sono altre questioni come quella dell'ottenimento del permesso, che sono questioni amministrative, si va non davanti al giudice per i permessi di soggiorno, ma si va davanti all'autorità governativa, no? Quindi al rappresentante del governo, perché non è un processo, non ci sono diritti, ma ci sono situazioni di fatto che vanno chiarite e con dei permessi e così via. Quindi l'apolide deve essere riconosciuto tale per essere qualificato apolide e deve dimostrare di non essere cittadino di alcuno Stato, altrimenti la sua condizione è migliore di quella dello straniero non regolare, è migliore, perché una volta riconosciuto apolide viene equiparato al cittadino, allo straniero regolare, quindi conviene a chi non ha la cittadinanza chiedere la dichiarazione di apolidia, che consente anche l'acquisto della cittadinanza, come quella della regolarità, è un giro che si può fare, mentre da non riconosciuto non ci arriverà mai a diventare cittadino. E poi c'è quella del rifugiato, che invece non è una situazione che compete all'Italia, ma deriva da una convenzione, no? Di Ginevra, famosissima, e un accordo tra stati che prevedono, sempre su richiesta dell'interessato, la definizione di quel soggetto come soggetto rifugiato, che quindi va protetto e non può essere respinto nel paese da cui viene, perché ci sono pericoli per la sua persona. Quindi non sono qualifiche di fatto, questo ci tenevo a dire come giurista, vanno accertate o dall'autorità amministrativa o dall'autorità giurisdizionale, ma vanno accertate. E all'accertamento segue naturalmente l'attribuzione dei diritti. Che ora abbiamo fatto? 5, ma io vado avanti. Però, non lo so, volevo soltanto, questi naturalmente i diritti, allora i diritti, ho detto il nucleo fondamentale di diritti, ve ne ho nominati alcuni, la libertà religiosa, manifestazione del pensiero, abbiamo visto, no? La libertà. Però quelli che sono comunque riconosciuti invece e sono importanti dal testo unico, nuovi diritti al cittadino regolare, sono molto interessanti, perché intanto c'è quel famoso diritto al ricongiungimento che già aveva previsto Martelli con la legge Martelli, però viene esteso, perché non è un diritto al ricongiungimento familiare del lavoratore subordinato, ma diventa un'applicazione di un più generale diritto all'unità familiare. Lo straniero regolare ha diritto all'unità familiare, questo è un diritto soggettivo, parlo di diritto in termini tecnici, però ha diritto all'unità familiare. E come si, questa è una medaglia, c'ha due facce, e sì, queste due facce della stessa medaglia si evincono bene dalla lettura del testo unico. Da un lato significa possibilità di ricongiungersi, soprattutto diritto al ricongiungimento con la famiglia nucleare, e lì la Bossi-Fini è intervenuta perché ha ristretto il ricongiungimento, le categorie che si possono ricongiungere. Dall'altra parte però significa anche divieti di espulsione, quindi l'unità familiare è alla base non solo dell'allargamento ai parenti più stretti, ma è anche alla base del divieto di espulsione, che non è da poco, perché ci sono dei divieti di espulsione che riguardano gli irregolari. Allora, chi è che non può essere espulso? Non può essere espulso il minore. C'è un divieto di espulsione del minore, qualunque sia la sua condizione familiare, fino ai 18 anni. Ecco perché io un po' mi altero quando si dice: ma questi poveri minori non si sa se ci stanno o non ci stanno. Beh, no, altro. Il minore fino al compimento di 19 anni non può essere espulso, c'è un diritto ben previsto dal testo unico, sia regolare o irregolare, che ogni tanto faccio dei salti, scusate. Ma il minore, certo, si può ricongiungere quando si trova all'estero col proprio genitore che ha il permesso di soggiorno, ma se si trova qui casualmente, indipendentemente dalla causa per cui ci si trova, non può essere espulso. È l'altra faccia dell'unità familiare, no? Si presume che stia con i suoi familiari irregolari che eventualmente verranno respinti, ma non resta. Se la volontà è quella, va sempre accertato su uno dei suoi genitori, può restare, quindi c'è un divieto di espulsione. Divieto di espulsione della moglie irregolare, del coniuge, ma della moglie irregolare che sia in stato, che in gravidanza, lì pure fino alla nascita del figlio, e anche per un certo periodo dopo la nascita, la moglie irregolare non può essere espulsa, no? Sono sempre perché alla base c'è questo diritto all'unità familiare. E a proposito, per esempio, del divieto di espulsione del coniuge, donna che aspetta un figlio, ma del coniuge in generale quando è presente sul territorio dello Stato, del coniuge di un regolare, parliamo del diritto all'unità familiare dei regolari che coinvolge gli eventuali regolari e li fa stare qui, no? A proposito del divieto di espulsione del coniuge irregolare, del regolare, il soggetto regolare, si è fatta tutta una questione della costituzionalità di questa norma, perché Che cosa è emersa? La questione della tutela della famiglia di fatto. Si dice: ma queste sono norme che tutelano il matrimonio tradizionale, no? Il matrimonio, la famiglia fondata sul matrimonio. E cosa facciamo delle famiglie di fatto? Vedete che la questione della convivenza di fatto si propaga in tutti i settori. il convivente di fatto dice: perché io devo essere espulso solo perché non sono legato da un vincolo coniugale matrimoniale? E quindi la questione di costituzionalità in primo luogo respinta, poi pare che adesso invece l'Europa si sia mossa in senso più favorevole a consentire l'estensione dei divieti di espulsione anche al convivente di fatto, per esempio, no? Quindi una emersione anche delle problematiche relative alle nuove famiglie, il convivente omosessuale, le coppie omosessuali, tutte questioni di diritto di famiglia che entrano in questo diritto all'unità familiare. La Corte Costituzionale si è espressa sia per il coniuge di fatto che per il convivente, sì, la famiglia di fatto omosessuale, in senso negativo, dice: noi tuteliamo soltanto la famiglia legittima fondata sul matrimonio, però l'Europa no. E poi vi dirò che ci sono due direttive importantissime su questo punto che sono andate avanti rispetto a noi e quindi hanno aperto prospettive nuove di interpretazione di queste norme. Allora, vi dicevo, il diritto all'unità familiare ha due facce, quindi possibilità di chiedere il ricongiungimento e divieti di espulsione. Il ricongiungimento di chi? Del coniuge, appunto, coniuge matrimoniale fondato sulla famiglia legittima, eventualmente di fatto se si applica una direttiva di cui dopo vi dirò gli estremi, che prevede la libera circolazione anche dei conviventi di fatto insieme con lo Stato in Europa, e poi i figli, e se i genitori non sono autosufficienti, non hanno figli, queste sono i giri di vita che hanno dato dopo il legislatore, non hanno figli che sono in grado di mantenerli all'estero, anche i genitori, solo quelli. I fratelli? No, i fratelli no. Come mai è capitato? I fratelli l'hanno previsti. I fratelli disabili della persona. Adesso bisognerebbe andare a leggere la norma, francamente. So che. In grado di autosostenersi. Può darsi, ma sempre in mancanza di persone che nel paese di origine se ne possano prendere cura. Sì, c'è una. Adesso mi pare la norma la possiamo vedere. Io sono certa della famiglia che mi sta a cuore, cioè quella nucleare, coniuge, figli e eventualmente genitori. I fratelli potevano, ma dopo con la posta fine sono stati eliminati, tranne forse questi casi di handicap, non lo so, non sostenuti, c'è la norma, la possiamo richiamare. Adesso non voglio darvi proprio tutte le nozioni precise perché il testo unico prevede tutto, se no non possiamo dire tutto. Credo che non ci siano più fratelli. Solo in caso di handicap, sono sicura che non ci sono più, ma solo in caso di handicap. Allora, il diritto all'unità familiare, poi altri due diritti molto importanti a cui io tengo molto che vadano chiariti, che hanno già gli stranieri regolari, sono il diritto alla salute, di cui avete ampiamente parlato, che è un diritto riconosciuto dalla Costituzione, che significa diritto alle prime cure anche per chi non è regolare, diritto alla salute per i regolari, e come diritto fondamentale in quel nucleo di diritti fondamentali di cui abbiamo visto anche il diritto alla salute, che nella Costituzione c'è, ma è previsto per i cittadini, che naturalmente come contropartita anche di un contributo fiscale e così via. Però invece il diritto alla salute è un diritto che rientra in quelli che abbiamo visto come diritti che spettano a tutti, quindi ai regolari, agli irregolari, no? Per le prime cure, non per una cura programmata, il diritto a essere accolto dal pronto soccorso, dove mi pare che sia. No, se c'è andata, a me è capitato purtroppo di andarci recentemente per un incidente, sono occupati, no? Perché non ci si può rifiutare dagli extracomunitari, anche irregolari, che non si possono rifiutare le prime cure. E poi quello scolastico è molto importante, no? Il diritto all'istruzione, che è un diritto generalmente riconosciuto a tutti gli stranieri regolari come ai cittadini, ma anche agli irregolari, rientra tra i diritti fondamentali dell'uomo all'istruzione nell'ambito della scuola, dell'obbligo. Infatti non sapevo io prima di occuparmi di questo tema che quando ci si iscrive alla scuola non viene richiesto alcun certificato che attesti la regolarità del soggiorno fino alla scuola dell'obbligo. Per esempio il tema di estendere, voi sapete che un altro tema è quello di prolungare il tempo dell'obbligo, è legato anche a questo, perché finché c'è la scuola dell'obbligo si può mantenere il minore anche irregolare senza chiedergli le condizioni. Questi, quindi il diritto alla salute e il diritto all'istruzione sono molto importanti. Poi c'è il diritto all'esercizio delle professioni, altri diritti, ma non voglio rubare tempo ad altre cose che mi interessano. perché voglio farvi un piccolo schemetto, se siete d'accordo, e poi vorrei anche le vostre domande, ma vi vedo molto preparati su questo tema, su come uno straniero può diventare, non lo posso dire, esco dal tema, ma quello della questione dello ius soli, no, dell'acquisto della cittadinanza, perché i diritti li abbiamo più o meno, no, classificati velocemente, d'altra parte in questo poco tempo non posso dire tutto, però ci tenevo a dire come il regolare può diventare cittadino. Intanto questa è la prima sede in cui posso, non con gli studenti che possono essere facilmente manipolati, quindi il discorso, siccome è un discorso che prende spesso una piega politica, cerco di farlo il più tecnico possibile, ma con voi lo posso fare. Intanto cominciamo a dire che dire lo ius soli non ci capiamo, cioè che significa tutti? Allora, la cittadinanza si può acquistare in due modi. Noi così abbiamo studiato la legge sulla cittadinanza, dimenticavo di dirvi qual è, la sapete ormai, è notissima, la numero 91 del 1992, quella è la legge sulla cittadinanza italiana, la legge è una legge, un testo unico, la numero 91 del 1992, l'ho studiata in questo testo, che qualcuno può avere riferimenti verità. Bene, stabilisce che in generale, non la legge, in generale l'acquisto della cittadinanza può essere di due tipi: o iure, così diciamo noi, sanguinis, o iure soli, cioè o per diritto di sangue, perché si nasce da genitori cittadini, o perché si nasce nel territorio dello Stato, qualunque Stato, è un modo, sono due tecniche che riguardano tutti gli Stati, non solo quelli italiani. Quindi dire ius soli come diritto all'acquisto della cittadinanza è sbagliato, perché non è un diritto all'acquisto. Quando noi diciamo ius soli, giuristi dico noi così, ius soli, ius sanguinis, o meglio iure soli o iure sanguinis, intendiamo riferirci alla tecnica con cui si acquista il diritto, secondo quale sistema si acquista il diritto. Quindi ius qui non è la traduzione di diritto soggettivo, quindi è sbagliato dire ius soli come diritto alla cittadinanza, è proprio sbagliato come traduzione, significa secondo la regola della nascita nello Stato, secondo la regola del sangue, della famiglia, quindi quello ius latino, o iure, come meglio dire che è l'ablativo, significa secondo la regola cittadina, quindi dire diritto alla cittadinanza è proprio sbagliato, non è un diritto, poi non è un diritto, è un modo di acquisto della cittadinanza, quindi noi ci dobbiamo confrontare con due modi di acquisto. Quello che abbiamo in Italia è uno di acquisto di cittadinanza di un esame, si acquista, ma adesso però vi dirò delle cose che vi faranno forse un po', perché quando si studia la materia ci si appassiona un po' capire come è enfatizzata l'attuale dibattito. Allora, la nostra regola generale è che l'acquisto automatico della cittadinanza, senza nessuna manifestazione di volontà automatico, è fondato sulla regola dello iure sanguinis, si acquista la cittadinanza dai genitori italiana, parliamo dell'Italia, quando uno, entrambi o uno dei due genitori nelle coppie miste, che pure dobbiamo tenere presente, è italiano. Questa è l'attuale regola del 92, ma la legge del 92 è intervenuta dopo una legge che è del 1907, del primo decennio del Novecento, che invece prevedeva tutt'altro. L'acquisto di iure sanguinis soltanto per parte paterna. Allora, la donna italiana nelle coppie miste non trasmetteva mai la cittadinanza, quindi c'era una differenza abissale rispetto al 92, che non mi pare tanto lontano. Il 92 si saranno passati quanti? 25 anni, ma prima di 25 anni fa la donna non trasmetteva la propria cittadinanza, no? In una coppia mista, soltanto dal padre. Che cosa è successo dopo questa legge sulla cittadinanza dei primi del Novecento? Che la Corte Costituzionale, quando ha potuto intervenire? Dopo l'emanazione della Costituzione, no? Con la Costituzione si è affermata la parità e la dignità di tutte le persone, ma soprattutto con la riforma del diritto di famiglia del 1975, famosissima riforma, che ha previsto, no, la possibilità di riconoscere i figli fuori del matrimonio, i figli adulterini, tutti i figli naturali hanno un trattamento uguale a quelli legittimi, insomma la riforma del 75. Da quella riforma ci sono state delle richieste reiterate alla Corte Costituzionale di pronunciarsi contro la costituzionalità di queste norme che impedivano il passaggio, che ponevano una differenza tra madre e padre e imponevano soltanto il passaggio più l'esame di star padre. Quindi dopo la Costituzione, con il dibattito della Corte Costituzionale, si è affermato che sia il padre che la madre, nell'eventualità che siano di cittadinanza diversa, possono trasmettere iure sanguinis automaticamente la cittadinanza. Quindi basta che nella coppia uno dei due sia italiano, c'è la cittadinanza italiana. Questo che significa? Un altro problema importante, mi vengono un po' tutti affollati perché l'argomento è molto complesso, che si è passati da un rifiuto della molteplicità delle cittadinanze, della bipolidia, che era tipico di quel sistema precedente, in cui non si ammetteva la coesistenza di più cittadinanze, invece ha una normativa, quella del 92, che ammette la possibilità della coesistenza di più cittadinanze, perché non perdiamo di vista il fatto che questi soggetti che chiedono la cittadinanza, però vogliono acquistare, hanno già una cittadinanza, quindi si aggiunge. Il nostro sistema è un sistema che consente la bipolidia. No? Perché se diciamo che basta uno dei genitori per trasferire la cittadinanza, dobbiamo concepire che se anche l'altro lo trasmette iure sanguinis, questo soggetto che nasce avrà due cittadinanze, no? Automaticamente. Pensate a un'ipotesi di due genitori che trasmettono iure sanguinis, due cittadinanze diverse. Evidentemente si deve ammettere come corollario che si ammette la bipolidia, quindi una condizione che invece prima era avversata, bisognava scegliere. Invece adesso si può anche non scegliere, rimanere cittadini di più stati, quindi una scelta molto più aperta rispetto alla precedente. E poi quando si affermò che anche la madre poteva trasmettere, quindi ci fu il problema della retroattività, si disse: ma se noi adesso diciamo che i figli di madre italiana possono acquistare la cittadinanza italiana, che succederà di quelli che precedentemente si trovavano nella stessa situazione ma prima dell'entrata in vigore della Costituzione? Ci sarà una disparità di status, perché la cittadinanza è uno status, non è un diritto, è uno status, una condizione di diritti e doveri che il soggetto ha in un territorio, è uno status, non è un diritto. E alla fine il dibattito si è fermato al 1948, si è detto: ma andiamo indietro fino al 48, dalla sentenza degli anni 70 della Corte Costituzionale, e riconosciamo a tutti quelli nati da madre italiana fino al 48. Naturalmente poi non è che la persona vivono in eterno, quindi via via che passano gli anni la questione della disparità si va estinguendo, perché le persone non ci sono più. Un'altra questione di costituzionalità, che cosa ha riguardato? La perdita della cittadinanza da parte della donna italiana in caso di matrimonio. Quindi non soltanto la donna italiana non poteva, vedete la donna, quanti passi ha dovuto fare avanti, non soltanto non poteva trasmettere la sua cittadinanza italiana, ma la perdeva pure se, nel caso di matrimonio. Questa è la legge che nel 92 è stata cambiata. È stata cambiata, modificata attraverso le sentenze della Corte Costituzionale, ma un conto è una nuova legge del 92, un conto è appellarsi alla riforma e quindi alla interpretazione della Corte Costituzionale, che è importante, ma insomma non è come una legge. Allora, che è successo? Che le donne coniugate con cittadini stranieri hanno riacquistato la cittadinanza italiana e l'hanno potuta trasmettere ai figli. Quindi tutta questa questione della Corte Costituzionale è intricatissima, perché significa che si fanno disparità poi fra chi l'ha avuta e chi non l'ha avuta, no, per dire che gli stessi italiani hanno avuto questioni sulla propria cittadinanza, quindi va un po' contestualizzato il discorso. Bene, questa è la nostra regola. Quali sono gli altri modi di acquisto automatico? Ce ne sono altri, dei figli minori. I figli minori quali? I naturali, allora quelli già nati al momento del matrimonio, ovviamente, e quelli di cui stiamo parlando. Ci sono altre categorie di figli, naturali per esempio, in cui l'essere figlio non coincide con il momento della nascita. L'essere figlio di Tizio, di Caio, di Milano, no? Può essere che un soggetto riconosca il proprio figlio nel momento successivo alla nascita, figlio di un'altra cittadinanza. Questo figlio riconosciuto di un'altra cittadinanza diventa italiano automaticamente, perché i figli naturali riconosciuti acquistano iure sanguinis, la cittadinanza del padre, eventualmente che riconosce nel momento successivo. Quasi sempre il padre riconosce successivamente, non la madre, anche se ormai è uguale. Oppure dichiarati giudizialmente figli naturali, perché c'è anche il procedimento davanti al giudice, anche loro acquistano la cittadinanza automaticamente. Quindi questa è la seconda categoria. La terza categoria di minori di minori, sempre minori, che acquista automaticamente la cittadinanza italiana sono gli adottati. Quindi anche con l'adozione dei minori l'adottato diventa cittadino italiano. Come vedete, questo acquisto iure sanguinis non è un acquisto fossilizzato al momento della nascita, ma copre anche altri eventi a tutela del minore, ovviamente, ed è per attribuire la cittadinanza a questi soggetti. Bene, poi ci sono, accanto a questi casi principali, casi di acquisto non automatico della cittadinanza, ecco qui il punto, no? Perché anche lo ius soli, no? Diciamo così, l'acquisto fondato sulla nascita in territorio italiano, quello che si propone adesso, si chiama temperato, e quello mi fa un po' lascia perplesso, perché è temperato e quindi assomiglia moltissimo a quello che abbiamo già adesso, no? Ai modi di acquisto non automatici su richiesta dell'interessato che già esistono. Quindi aveva fatto bene Napolitano, l'ex Presidente della Repubblica, a chiedere una riduzione dei termini per la naturalizzazione, perché adesso vi dico, il primo sistema per acquistare la cittadinanza è la naturalizzazione. Se riduciamo il termine, che è decennale, abbiamo già risolto la questione. Siamo nell'ambito di quello che diciamo adesso, dell'acquisto della cittadinanza temperata da un certo periodo di tempo. E invece ne stanno facendo una questione di equivoco linguistico, no? Perché adesso vi dico, sono tre i modi di acquisto della cittadinanza non automatico, ma su richiesta dell'interessato. Quindi siccome il minore già segue la sua strada, no? Bisogna che sia maggiorenne il soggetto, perché ci vuole il suo consenso. D'altra parte io non vedo, scusate, non mi voglio schierare, ma non vedo niente di male al fatto che si richieda un consenso del soggetto che deve diventare cittadino italiano. Siamo certi che vuole diventare cittadino italiano? Un consenso ad acquistare la cittadinanza non mi sembra una cosa così fuori del no. Il minore segue la strada che gli abbiamo dato, ma quando nasce, ma un consenso cosa ci vuole? E infatti sono tre: naturalizzazione, matrimonio, beneficio di legge. Beneficio di legge ve lo lascio da parte, è un modo di acquisto della cittadinanza italiana fondato sulla derivazione da stirpe italiana. Cioè chi ha degli antenati italiani può far valere questo beneficio di legge e quindi può ritornare a essere cittadino italiano, difendere la stirpe, e lasciamo da parte. I due più praticati sono la naturalizzazione e il matrimonio, come modi di acquisto su richiesta dell'interessato della cittadinanza italiana. Chi si può? E questo è il punto, la naturalizzazione è più diffuso. La permanenza regolare, il soggiorno regolare, ininterrotto, sullo Stato italiano, quindi parliamo degli stranieri regolari, per un periodo variabile a seconda di chi farà la richiesta, conduce, se richiesto, alla cittadinanza italiana, sempre su domanda, certo non è automatico, è su domanda dell'interessato. Un periodo più lungo riguarda gli stranieri regolari, 10 anni di residenza, di permanenza con soggiorno regolare, 10 anni. Invece ci sono periodi inferiori, per esempio per gli apolide mi pare che sia 5 anni, l'apolide 5 anni, addirittura il cittadino comunitario qui viene considerato 3 anni, cioè se un francese o un tedesco sta per 3 anni in Italia ininterrottamente, io ho una figlia che studia, ve lo dico tanto perché lei si pone questo problema in Inghilterra e vorrebbe diventare giustamente cittadina inglese, deve dimostrare che ininterrottamente i 3 mesi di vacanza che fa qui non gli consentono, cioè gli allungano il termine, no? Non può, deve essere ininterrottamente presente o giustificare l'assenza con motivi che non sono la vacanza. Comunque, ininterrotto per i cittadini comunitari 3 anni, si può diventare cittadino di un altro stato della comunità. Allora io dico, questa cittadinanza per naturalizzazione non è una via percorribile secondo me per attribuire la cittadinanza? Direi di sì, perché l'unico presupposto è la regolarità della presenza del territorio dello Stato. E già c'è, quindi ovviamente. Secondo modo di acquisto della cittadinanza da parte sempre dei regolari, il matrimonio, cioè una donna o un uomo che regolarmente soggiorna in Italia e si coniuga, questa è anche una questione di famiglia di fatto, però questo è limitato, questo modo di acquisto alla famiglia legittima, con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana. Subito no, perché qual è il pericolo? Quello dei matrimoni fittizi, come anche delle adozioni fittizie, perché anche l'adozione conduce all'acquisto automatico della cittadinanza. Il problema è quello delle matrimoni fittizi, lo scopo del matrimonio non è quello di acquistare la cittadinanza, deve essere quello della comunione di vita, spirituale, materiale, eccetera. Quindi per evitare questo c'è questo, non so se siete d'accordo, comunque questa limitazione che devono esserci 3 anni, devono passare dopo il matrimonio, oppure un termine ridotto se c'è la convivenza, tutto ridotto se sono sopraggiunti dei figli. Certo, la nascita dei figli si presume escludere la simulazione, no? Perché se nascono dei figli l'intento matrimoniale e la volontà matrimoniale c'è, pare che ci sia. Quindi quando ci sono i figli si accorciano tutti i termini, ma naturalmente chi acquista la cittadinanza deve essere regolare, non è che si regolarizza così. Però attenzione, il matrimonio, oltre che essere un modo di acquisto della cittadinanza, è anche un modo di acquisto della condizione di regolarità. Cioè l'irregolare, facciamo un'ipotesi, la donna, non so, facciamo, fatemelo voi, insomma un'ipotesi frequente, la donna, perché sono spesso le straniere, o anche lo straniero, indiano, per esempio, che si coniuga con un italiano. Fa 2 passaggi, prima diventa regolare immediatamente per motivi di famiglia, questi sono i motivi di famiglia, diventa immediatamente regolare col matrimonio, dopo che comincia a decorrere il termine può chiedere, mentre il permesso è automatico, può chiedere, può anche non chiederla, la cittadinanza nel corso di termini di 3 anni, oppure in caso di sopravvenienza di prole. Quindi vedete che ci sono 2 passaggi tutti temuti, perché entrambi gli effetti, sia la regolarità che si acquista immediatamente, sia la cittadinanza, potrebbero essere l'unico effetto per cui si fa il matrimonio. E naturalmente questo è in qualche modo impegno. Sì, ma ci si può sposare? Sì, poi chiudo, così mi fate vedere. Si può sposare in Italia se una persona è irregolare? Cioè, penso di sì. Adesso questa è una domanda. Si finisce è molto difficile perché teoricamente dovresti andare in galera, ma non vai. No, vabbè, adesso. Ecco, probabilmente sì. Vabbè, in Italia non si può sposare. Comunque, se arriviamo a questo, diamo il matrimonio per presupposto, perché siamo quasi alla fine dell'ora e mi dispiace perché ci sono tante cose da dire. Su questo punto, l'ultima cosa che volevo dire, allora, la regolarizzazione, il matrimonio, sempre che non ci siano sospetti di figli, il matrimonio è sempre sospetto di abuso, la naturalizzazione. Il minore acquista automaticamente la cittadinanza quando sia nato in Italia, e questa è una regola che già c'è, è inutile che c'è. Quando sia nato in Italia e sia diventato maggiorenne, siccome fino alla maggiorità non può essere espulso, questo è l'unico caso di irregolarità, un minore regolare nato in Italia che a 18 anni diventa, in questo caso automaticamente, cittadino. Quindi 18 anni, nato in Italia, c'è già la regola, nato in Italia, non espulso perché è coperto dal divieto di espulsione, al 18° anno d'età deve chiedere. Che cosa dicono i fautori della nuova disciplina che andrebbe a complicare in maniera incredibile? Dicono, ma deve chiedere, non è automatico, vabbè, ma c'ha 18 anni, lo chiederà, se lo vuole, no? Lo chiederà, ma ci sono quelli che non lo sanno. Allora, a questo punto io direi che la questione non è delle regole e della informazione, non della resistenza delle regole, della modalità di applicazione di quelle regole. Deve chiedere, perché, ripeto, non è la cittadinanza un diritto, è uno status di diritti e doveri, no, del soggetto. Questa è l'ultima ipotesi, l'unica poi di irregolarità che si converte in cittadinanza. Però, siccome il dottor Moruzzi vorrei fare una riunione alle 6, perché io avessi fino alle 6:30 l'orario, mi chiudo qui perché magari, ecco, per esempio, abbiamo avuto un'interlocuzione interessante, non ci si può sposare in Italia, probabilmente perché ci vogliono i permessi di soggiorno, non so, non ci si può sposare, ma il matrimonio misto comunque conduce sia al permesso di soggiorno che alla, per motivi di famiglia, che alla cittadinanza, questo sicuro. Però è visto con sospetto, quindi su motivi ostativi, tutto questo che vi sto dicendo è seguito, è fatto con dei procedimenti, che adesso non vi sto a spiegare, però insomma, spero di aver fatto un quadro, francamente una materia che ci vorrebbe un po'. Noi la riunione abbiamo previsto per le 6:30, abbiamo mezz'ora. I reati sono una causa ostativa, i reati. Allora, certi reati contro lo Stato. Un una mezz'ora, 20 minuti, insomma, se volete. Allora, prego, prego. Allora,